Bene, allora cominciamo. Come recita il titolo che abbiamo lanciato, che gli spari ad est ci devono interessare, e su questo piano ci deve interessare anche un'altra cosa, e non a caso inizieremo a parlare di Kazakistan. Certo, non eviteremo di parlare della guerra, non eviteremo di parlare di Ucraina, di Russia e dintorni. Ma perché iniziamo con Kazakistan? Per un motivo, anzi due, forse tre. Grazie a Yuri forse diventeranno 4, 5, 6. Ma il motivo principale è che in quel paese si è svolta una lotta da parte dei lavoratori che ci interessa principalmente, sono queste le lotte che ci interessano, e Yuri ce la racconterà in breve, ma molto informato dei fatti. Questa è la lotta che c'è stata in quel paese che continua, è uno degli aspetti che dentro questo marasma ormai internazionale sono i segnali che ci interessano più di tutti. Per quanto riguarda la questione, la faccio breve, non abbiamo niente da aggiungere alle tre righe che abbiamo messo sotto la locandina, che sono: non abbiamo nessun fronte da sostenere, non abbiamo armi da inviare, abbiamo da ribadire ancora una volta le questioni di classe anche nel conflitto che stiamo vedendo e che giornalai e pennivendoli di varia natura ci propinano dal mattino alla sera. Io lascio la parola a Yuri che ci parlerà appunto un po' e ci informerà di Kazakistan, perché quando si ammazza i lavoratori e gli operai, sulle prime pagine quasi non ci vanno, comunque la notizia dura poco. Io penso che sia, come dire, ci sia È aperto il secondo? ci sia un legame, come dire, strettissimo e intimo, tra quello che, sta avvenendo in Ucraina, che continuerà a avvenire in Ucraina, e quello che è avvenuto in Kazakistan. Perché si tratta di un processo più ampio, più complessivo, che ultimamente mi ha fatto riflettere molto. È un processo di riflessione che è cominciato dal 2020, dalla ribellione dei movimenti che sono avvenuti in Bielorussia nell'estate, nell'agosto del 2020, e tutti gli avvenimenti che si sono succeduti successivamente. Eric Hobsbawm, che forse è uno degli storici contemporanei più conosciuti su scala mondiale, aveva definito il XX secolo il secolo breve, un secolo che si era aperto con la rivoluzione d'ottobre e si era chiuso sostanzialmente col 1989, col crollo del muro di Berlino. E da lì da allora eravamo entrati in una nuova fase storica, in un nuovo contesto storico, in cui ci sarebbero collocate nuove dimensioni della conflittualità, dello scontro, magari anche di classe, però più in generale si entrava in una dimensione completamente diversa. Quello che mi ha portato a riflettere maggiormente che, come dire, il secolo breve invece appare come invece essere un secolo lungo, un XX secolo che non passa, perché se noi accumuliamo e mettiamo insieme tutta una serie di dinamiche che abbiamo visto negli ultimi anni nell'ex URSS, possiamo osservare che il crollo dell'URSS, cominciato con il crollo prima delle cosiddette democrazie popolari dal 1989 in poi, con il crollo dell'URSS nel 1991, non ha cessato di svilupparsi e di avere una propria dinamica. Adesso parleremo di Kazakistan, ma naturalmente dobbiamo avere in mente una scansione cronologica, molto ben chiara e ben definita. La rivolta in Bielorussia, la guerra tra Azerbaigian e Armenia, la rivolta in Kazakistan, gli avvenimenti in Ucraina. Se noi tutti questi fattori e tutti questi elementi li mettiamo insieme, inizieremo ad avere un quadro complessivo della dinamica che ha condotto anche a questa situazione, che ha portato, probabilmente non è il solo fattore, che ha portato poi Putin il 24 febbraio del 2022 a irrompere in Ucraina. La disgregazione dell'URSS è avvenuta come entità, che era un'entità per certi versi che poteva essere definita imperiale, per altri versi poteva anche essere definita proto-socialista, un fenomeno estremamente complesso su cui all'interno del movimento operaio, del movimento rivoluzionario, si è discusso per decenni. E naturalmente tutto quello che avviene nell'ex URSS per certi versi è qualcosa di successivo, è qualcosa di nuovo, però non si sfugge. Io questo autunno ho pubblicato questo libro sul crollo dell'ex URSS, e inizialmente voleva essere un libro che rifletteva proprio sull'ultimo periodo del crollo dell'URSS e sui motivi e sulle conseguenze che ha determinato il crollo dell'URSS. Ma più lo scrivevo e più mi rendevo conto che c'era un elemento che era rimasto, come dire, un carattere che era rimasto aperto, squadernato, che il capitalismo internazionale ha venduto una rappresentazione di quello che sarebbero dovuti diventare i paesi dell'ex URSS, una volta che sarebbe stato introdotto il cosiddetto mercato, la libertà di mercato, il capitalismo, eccetera, eccetera. E guarda caso, in tutte queste 15 repubbliche, tutto questo grande successo, questo grande sviluppo economico, sociale, democratico, è completamente fallito. L'Ucraina è un paese che è al 165esimo posto per prodotto interno lordo pro capite. Mi sembra che tra il Belize, stiamo parlando dei dati del 2020, e un altro paese africano. La Russia, malgrado che sia uno dei più grandi produttori, forse per prodotti energetici è il più grande produttore di gas e di petrolio, e ha tutte le risorse del mondo, dai brillanti all'oro, al legno. È uno dei, forse un quarantesimo, in cinquantesima posizione, però i pensionati in Russia prendono tra i 100 e i 120 euro al mese. Le repubbliche centroasiatiche non hanno conosciuto nessun tipo di sviluppo, hanno conosciuto un crollo. La massa dei lavoratori è dovuta emigrare in Russia, lavorare nei cantieri, nelle fabbriche, sui taxi. E potremmo continuare. La Moldavia è un paese che vive delle rimesse che vengono mandate dai migranti che lavorano all'estero. Insomma, il grande sogno di trasformare l'ex URSS in un nuovo dinamico sviluppo capitalistico è di fronte a noi, è completamente fallito. Tra questi paesi il Kazakistan ha un posto particolare, perché il Kazakistan è un paese che è uno dei primi 15 produttori mondiali di gas, è uno dei primi 8 produttori di petrolio, con una popolazione estremamente limitata, su un territorio che è più grande della metà dell'Europa. Ebbene, questo paese, che ha dato in concessione per oltre il 70% ad aziende americane, britanniche, olandesi, svizzere e financo russe, ha conosciuto dall'inizio degli anni 2000 lo sviluppo di un grande movimento operaio, di un grande movimento operaio di lotta, soprattutto nei settori estrattivi, cosa che naturalmente è stata poco conosciuta negli anni negli ultimi due decenni, ma che è stato un segnale importantissimo. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, anche l'Ucraina ha un movimento operaio organizzato estremamente, estremamente interessante. Il primo gennaio del 2022, mentre insomma ci si alzava dopo la serata del Capodanno e si rifletteva su quanto vino si era bevuto o non bevuto, in Occidente, in Kazakistan, iniziava una lotta contro l'aumento del gas, liquido. Un aumento che era estremamente limitato, un aumento che doveva essere del 50%, ma che i lavoratori, questa lotta è cominciata soprattutto nella zona sud-orientale del paese, la zona più industrializzata del settore estrattivo, si ribellavano e rifiutavano questo aumento. Nel giro di poco più di 48 ore, tutta la zona sud-orientale del paese, c'erano scioperi, blocchi delle strade, manifestazioni per le strade, tant'è che il governo di Tokayev, che come dire, aveva iniziato un cosiddetto processo riformistico dopo i decenni di governo di Nazarbayev e della sua congrega, dichiarava immediatamente che era d'accordo a non aumentare i prezzi, a non aumentare i prezzi di gas. Tanto era il timore dello sviluppo del movimento che si stava che iniziava a sorgere, perché avevano completamente il polso di quello che stava per succedere. I lavoratori hanno rifiutato, hanno detto: no, noi non vogliamo semplicemente che non ci sia l'aumento da 60 a 80 teng, noi vogliamo una riduzione a 50 e vogliamo anche tutti i prezzi dei prodotti alimentari fondamentali sussidiati. Il governo rispondeva: benissimo, siamo d'accordo, non abbiamo nessun tipo di problema. La lotta si estendeva in buona parte del paese, iniziava a toccare Almaty, che è una delle tre grandi città che è stata nel passato capitale del Kazakistan, e che poneva direttamente un problema di carattere politico, il rovesciamento di questo governo che si atteggiava appunto riformatore rispetto al regime di Nazarbayev, il cambiamento del governo, la nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori di tutte le industrie controllate dal capitale straniero. Attenzione, qualcuno può non piacere completamente un tipo di parola dell'ordine del genere, ma teniamo presente in quel contesto quanto è politica, quanto irrompa dentro una certa dimensione. Cioè, non c'è più un problema, come dire, sindacale, il problema è diventato immediatamente politico. È diventato talmente politico, immagino che voi non sui giornali italiani tutto questo non l'avete trovato, vabbè, è diventato talmente politico, la cosa ha assunto una tale dinamica che ad Almaty, che era la capitale, come dico, che era stata la capitale, una delle più grandi città, ha assunto un carattere insurrezionale, soprattutto spinto dai giovani delle periferie delle città, che si sono spostati in centro e hanno iniziato a assaltare i centri del potere, il Parlamento. Hanno preso l'aeroporto, hanno tenuto per quasi un giorno l'aeroporto, armati. Questo tipo di dinamica è una dinamica chiaramente insurrezionale, è una dinamica chiaramente proletaria, è una dinamica che inizia a fare i conti con i nodi centrali. E qual è stata Qual è stata la reazione internazionale? Molto interessante. La CSTO, cioè la piccola patto di Varsavia, che è continuato a sussistere dopo il crollo dell'URSS, ha subito, immediatamente mandato i suoi uomini, di cui 4/5 facevano parte dell'esercito russo. L'esercito russo è intervenuto immediatamente per reprimere in modo secco e decisivo questa enorme mobilitazione. Se qualcuno avesse ancora illusioni su chi sia Putin e su che cosa rappresenta, su quello che è successo in Kazakistan, è assolutamente evidente. Un governo completamente reazionario è legato alla dinamica del capitalismo mondiale. Tanto è vero che l'unico approccio che hanno avuto gli Stati Uniti d'America in relazione all'intervento del CTSO è che rientrasse rapidamente da questa breve occupazione e che le proprietà delle imprese, delle aziende rimanessero quelle che erano. Avete sentito che di fronte a una repressione che sono i dati ufficiali del governo kazako, 225 persone uccise durante le manifestazioni. Voi avete sentito che le potenze occidentali, che i paesi occidentali abbiano fatto una sola sanzione nei confronti del Kazakistan? Nessuna, niente. Anzi, se ne è parlato per un paio di giorni, e poi abbiamo avuto i nostri rossobruni, e come dimenticarceli? E come dimenticarci i Marco Rizzo e tutta questa gente che hanno parlato di rivoluzione arancione, che gli americani prima hanno iniziato con gli americani, poi hanno continuato con gli islamici. C'erano delle sette islamiche pericolosissime che stavano cercando di rovesciare, però forse legati all'Afghanistan, chi lo sa. Tokayev, il primo ministro kazako, al primo giorno, per giustificare l'intervento di oltre 5.000 truppe straniere nel proprio paese, ha parlato di 20.000 mercenari islamici presenti nel paese che ci stavano cercando di rovesciare il governo. Dopo 48 ore, sono tutte dichiarazioni ufficiali, le potete trovare. Non stiamo parlando di fake news, sono dichiarazioni ufficiali del governo. Dopo 48 ore ha detto che erano 300. Erano 300, siamo passati da 20.000 a 300. E 300, per eliminare 300, il governo non era stato in grado di reprimere, perché sapete, esistono i video, esistono le immagini. C'erano stati fenomeni di fraternizzazione tra la polizia, l'esercito e i dimostranti. Questo è quello che è avvenuto. E se la repressione è stata in grado alla fine di vincere, e se... l'ordine, no? Regna in qualche misura al mattino, da subito, dalle settimane successive, sono tornati gli scioperi, sono tornate le manifestazioni, ci sono costantemente, ogni giorno, ogni settimana. Ma voglio andare a concludere, perché non la voglio fare molto lunga, anzi poi vorrei anche ascoltarvi a voi con interventi, domande eccetera eccetera su questo aspetto, poi parleremo dell'Ucraina. È evidente che nella situazione del Kazakistan sono emerse delle questioni che da noi in Occidente e in Italia non si parla più da decenni. Dopo che in Italia abbiamo avuto forse la più grande estrema sinistra del mondo, è scomparso qualsiasi tipo di dibattito sul ruolo della classe operaia. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato dell'intellettuale cognitivo, del general intellect, siamo andati a cercare qualsiasi cosa che sostituisse questo soggetto che era scomparso, che se n'era andato. La prima volta che a livello internazionale si inizia a produrre un certo tipo di dinamica, un certo effetto di effetto, abbiamo ancora, eccola lì, la classe operaia tradizionale. Io non sono una persona che dice che non ci devono essere il discorso delle nuove professioni, dei nuovi proletari, delle nuove condizioni. Io non ho una visione ristretta alla classe operaia industriale. guardiamo dove sono i gangli, dove sono i gangli del potere, e quando vengono toccati c'è una reazione violentissima, una reazione violentissima da parte del capitale. Questo è il primo elemento. E il secondo elemento per questa estrema sinistra che si è disfatta e ha voluto disfarsi da sola, la questione della forza. Quando le cose vengono a galla, quando, come dire, le lotte raggiungono un certo livello, si pone la questione della forza. Io non dico che bisogna saperla risolvere con un dibattito lunghissimo, amplissimo, ma io penso che questa cosa qua deve tornare, come dire, di attualità. Anche poi vedremo, poi ne discutiamo sulla questione dell'Ucraina, ma voglio dire, è assolutamente evidente, la storia non è cambiata. Siamo ancora nel secolo lungo XX, ci scusi Osborne, no? In cui rapporti di classe, rapporti della forza sono lì centrali. Grazie. Ecco, noi adesso, poi le domande pensiamo di farle alla fine. Adesso volevamo entrare nella questione guerra Russia-Ucraina, e su questo piano, sempre grazie a Iuri, perché lui è recentemente tornato da quei luoghi, e su questo piano volevamo, come in parte abbiamo già fatto, in giro c'è già un'intervista sul sito Archive, però noi la vogliamo riprendere, perché ci sono dei particolari che ci interessano e che non a caso sui giornali, le TV e i mezzi della controinformazione, sia di una parte che dall'altra, parte una dall'altra significa la controinformazione NATO, le controinformazione UE o controinformazione russa, capire come all'interno della Russia venga vissuta la guerra. Questa è la prima considerazione che ti chiediamo, no? Mm-hmm. E sulla base di questo, in che peso ha e che limiti ha e che forza può avere quello che in parte abbiamo visto, cioè quelle manifestazioni dentro la Russia di contro la guerra. Sì, allora potrei ricominciare proprio dal Kazakistan, perché il Kazakistan non è avvenuto 3 anni fa, 5 anni fa, sono avvenimenti che sono sviluppati nelle prime 2 settimane di gennaio. L'inizio del conflitto è del 24 febbraio, ma io ormai tutti parlano del 24 febbraio, ma io tendo a parlare sempre del 21 febbraio. Del 21 febbraio, nel momento in cui c'è il famoso lungo discorso di Putin, in cui si dice che si riconosce l'indipendenza della Repubblica di Lugansk e della Repubblica di Donetsk. Questo passaggio è estremamente importante del Kazakistan, perché naturalmente, a differenza dell'Occidente, in cui diciamo appunto è stato vissuto, ma cosa sta succedendo in Kazakistan? Hanno fatto una rivolta. Poi dopo uno si dimentica, no? Di quello, perché sono apparsi un paio di articoli sui giornali e poi sono scomparsi. Naturalmente in Russia la cosa ha avuto una maggiore influenza e rilevanza, stiamo parlando sempre di un mondo dell'ex URSS, no? Che ha una sua dimensione. In Kazakistan, malgrado esista la lingua kazaka, comunque esiste un 30% di immigrazione storica russa durante il periodo sovietico in Kazakistan. Ci sono un 30% di etnia russa, per cui il russo rimane la lingua di riferimento e parlata, per cui tutto quello che avviene in Kazakistan ha un certo seguito e ha avuto una certa ricaduta. Una tale ricaduta, che chiaramente se ne è discusso e se ne è parlato e si è cercato anche negli ambienti di compagni, di sinistra, libertà, di alimentare una solidarietà fattiva, un'organizzazione fattiva di questa cosa, ed è sorto, no? È sorta la questione che, pur in una differenza per certi versi importante, culturale, storica, tra Russia e Kazakistan, insomma le questioni non erano poi tanto, non sono poi tanto diverse. Esiste un cleptocapitalismo che domina, basato in parte sulle vecchie strutture dell'URSS, in parte sui fenomeni di privatizzazione. Un piccolo strato di borghesia che scientificamente secondo me non è una borghesia compradora, però ha alcune di queste caratteristiche, e dall'altra parte una gran massa della popolazione, la stragrande maggioranza della popolazione, che vive condizioni materiali estremamente difficili, molto simile Russia, Kazakistan, sono e dove il ceto medio, il famoso ceto medio che avrebbe dovuto essere quella bolla, diciamo, che avrebbe dovuto garantire lo sviluppo capitalista, non è mai partita, se non nelle grandissime città. E allora questa similitudine aveva portato addirittura il capo del Partito Comunista della Federazione Russa, Gennadij Zhuganov, che è tutto meno che un estremista, anzi stiamo vedendo, no, le posizioni che ha preso sulla guerra, è un nazionalista reazionario di destra, però dato che esprime, come dire, un certo tipo di elettorato, eccetera, ha detto: ma la Russia stia attenta che quello che succede in Kazakistan domani può succedere anche da noi. Forse lo diceva, come dire, a Putin, gli dava un consiglio, no? Cerca di far combinare qualcosa dal punto di vista sociale, perché le situazioni non sono diverse. Ecco, questa cosa dà l'idea di che cosa bolle in pentola in Russia, perché quello che bolle in pentola in Russia, ci siamo fermati con lo scoppio della guerra al fatto che, e probabilmente i dati non sono così sballati se li prendiamo nella loro superficialità, che esiste un 55-60% che è favorevole alla guerra, che sostiene Putin, un circa un 25% contrari, e un altro percentuale, una zona grigia, che è incerta rispetto all'approccio alla guerra. Questo rappresenta un quadro che, appunto, come dire, formalmente probabilmente veritiero, io vivo a Mosca, per cui assolutamente non escludo che possa essere nella sua complessità in questo momento così, ma che non ci racconta i processi dinamici, non ci racconta un primo aspetto. Prima, la differenza che esiste nel sostegno alla guerra tra le diverse classi sociali, le diverse età e le realtà metropolitane europee e quelle siberiane, cioè è un dato preso complessivamente, ma noi sappiamo benissimo che nei processi di trasformazione sociale, per esempio, le grandi metropoli hanno un ruolo sempre importante, in Russia in particolare. A partire dal 1917, la rivoluzione del 1917 è San Pietroburgo, Mosca, essenzialmente. Per cui rimodulato tutti questi aspetti e queste dinamiche ci darebbero la possibilità di cogliere altri aspetti, di cogliere come i russi vivono questa situazione. La vivono in modo chiaramente estremamente precario, estremamente difficile, ma non solo perché le sanzioni che arriveranno, il peggioramento delle condizioni di vita, non solo per i legami che hanno atavici, storici, di lunghissima durata con gli ucraini. 14 milioni di persone hanno legami familiari tra russi e ucraini, non solo per questo elemento, ma perché nel fondo è il fallimento, si misurano e si misureranno col fallimento del progetto putiniano di far tornare la Russia una grande potenza, perché questo era il progetto di Putin. Già dal 2000, quando è arrivato al governo, ha detto: io nel 2015 raggiungerò il livello economico del Portogallo. Era abbastanza, come dire, anche modesto. Il livello del Portogallo non è mai stato raggiunto. E questo spiega tante cose. Sono stati continuati a lanciare negli anni dei programmi dei programmi economici nazionali per le infrastrutture, che sono stati sempre completamente disattesi, in cui si è parlato che sarebbero dovuti aumentare i salari, aumentare le pensioni, che non è mai successo. Non è mai successo, questa è la storia della Russia, malgrado la Russia sia uno dei più grandi produttori, e malgrado, e questa è la storia degli ultimi 3-4 anni, in cui i prezzi del petrolio e del gas sono tornati quelli che erano stati i primi 10 anni di Putin, che gli avevano garantito quella fase di crescita economica, di stabilizzazione del paese, 2000-2010. Adesso siamo a 100, 100, 120, ma l'economia non parte, non riparte, non c'è mobilità sociale, c'è un regime oppressivo e autoritario. Eccolo qua tutto il paese che abbiamo di fronte. Nel 1914, quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, i russi erano in stragrande maggioranza favorevoli alla guerra e andarono cantando le canzoni popolari, andando al fronte, che avremmo conquistato chissà quanta parte degli imperi centrali. E così. Poi noi sappiamo come è andata a finire tutta la storia dopo. Ora, io non voglio entrare in tutte le questioni famose che abbiamo discusso anche per decenni, la questione della soggettività, uno direbbe subito, ma guarda lì che adesso il partito non c'è, non ci sono le forze rivoluzionarie, sono messe malissimo, e questo non dovete dirmelo a me che conosco benissimo la situazione. Però noi non dobbiamo solo fermarci a questo elemento, perché questo è elemento riduttivo, e dobbiamo vedere come, cosa succederà nei prossimi mesi, cosa inizierà a ribollire dentro questa società, che tipo di dinamiche si verranno a produrre. Questo è estremamente importante, questo è un elemento è permanente. Sì, per me, che non va dimenticato, e che secondo me, e con questo concludo, ci dovrebbe iniziare a pensare, a far riflettere sulla questione dell'internazionalismo, farlo tornare un fatto reale, non una parola, cioè se lì è la questione centrale, adesso io non ho parlato appunto di tutta l'Ucraina eccetera eccetera, ma se lì è la questione centrale, cioè questo è l'epicentro della politica mondiale, o uno dei più importanti epicentri della politica mondiale, beh, come facciamo? Come facciamo a aiutare loro, e come facciamo a aiutare noi stessi? No, io volevo riportarti un attimo a quella che il regime putiniano ha definito l'operazione speciale, cioè ritornarti al Donbass, perché poi di questo stamattina o di ieri che fonti russe sostengono che la questione è che la guerra secondo loro è quasi finita, perché debbono semplicemente liberare definitivamente la zona e da lì discutere su altre questioni. Ecco, sotto questo aspetto non è il momento, ma indubbiamente la caratteristica che vede lo scontro tra Russia e Ucraina, al di là del fatto che sia dentro il cuore dell'Europa per la sua importanza, ma è anche un'importanza che vede dopo la Seconda Guerra Mondiale per la prima volta affrontarsi comunque nazioni che da un punto di vista industriale e tecnologico sono comparabili. Chiaramente non sono comparabili per la quantità, ma non è che siamo in presenza di operazioni dove uno va in un posto dove là non hanno ancora il telefono, no? Ecco. Quindi da questo punto di vista andare anche a ostenere sotto osservazione l'evolversi degli avvenimenti militari può avere una sua importanza, e ha così importanza perché comunque la guerra al momento non l'hanno vinta. Sulla base di questo fatto, così come la propaganda e finalmente ieri o l'altro ieri autorità, fonti russe hanno dato la loro stima per quanto riguardavano le perdite, che si accalcano attorno alle 500, più 1500 feriti. Adesso non sto qui a calcolarvi il numero preciso, comunque sono 500 morti. No, 1500. No, 1500 sono i feriti. No, 3500. E beh, adesso io ho letto fonti autorevoli, però... No, no, la fonte del Ministero della Difesa. E allora le hanno modificate ulteriormente, perché... mentre tutti, molti di voi, se c'è stato durante 10 giorni, eravamo arrivati a 9.000 morti, poi 3 giorni fa addirittura i russi avevano avuto 15.000 morti. Allora, questo era tanto, e finisco questa parentesi, chiamiamola così, militare. Allora, questo è per dare un'idea: le forze impiegate dai russi sul terreno sono 190.000 uomini, ma di questi solo 70.000 sono veramente i combattenti e gli operativi. Capite benissimo che se per caso le fonti che circolavano false parlavano di 15.000 perdite sui 70.000 combattenti, sarebbe stata una roba che era meglio tornare a casa, un disastro. Comunque, a parte questo, l'ultima domanda che volevo fare a Yuri era... Per quel poco che il nazionalismo ucraino e poi le sanzioni cosiddette veramente, che peso hanno sulla vita in primo luogo dei lavoratori, perché non dimentichiamoci, ma no, quando si parla di sanzioni non facciamo confusione tra sequestrare uno yacht al miliardario sulla Costa Smeralda, Parliamo di sanzioni che possono interessare la vita di chi va a fare la spesa e lavora tutti i giorni là. Sì, allora, naturalmente la questione del nazionalismo ucraino, che non può essere, cercherò insomma di fornire alcuni strumenti, ma non può essere, come dire, ridotto e sintetizzato, c'è il mio libro sulla storia dell'Ucraina, chi è interessato può anche approfondire il tema. È un elemento molto delicato, perché è uno del centro della discussione. In fondo, come dire, la rimodulazione che avviene del dibattito sulla guerra, in un certo senso, come dire, autocrazia russa da una parte e democrazie, oppure area russa orientale eccetera contro neofascismo, neonazismo presente in Ucraina. Sono entrambe due letture speculari e estremamente false, non perché non esistano alcune caratteristiche e elementi di questo aspetto, ma perché non sono, come dire, il cuore della questione. Il cuore della questione è vecchio come il 1914, nel senso che è la questione in tutta un'area che era dell'ex URSS, di come si vanno a ridefinire i rapporti di forza, il controllo dei mercati, le rotte energetiche, insomma è la vecchissima storia, che poi deve essere rivestita ideologicamente. Io non dico che le ideologie sono come solo semplicemente degli orpelli che vengono messi sopra alle dinamiche storiche e che li ricoprono, e che ricoprono, diciamo, i grandi interessi. Hanno una loro dinamica, hanno una loro importanza, e per questo, e in questo senso, vanno colti e compresi. Per comprendere il fenomeno del banderismo, il fenomeno, come dire, del movimento di Stepan Bandera, che sorse nella seconda metà degli anni 30, soprattutto nelle zone galiziane, nelle zone che non erano ancora state assimilate all'URSS e come verranno assimilate poi dopo gli accordi di Ribbentrop-Molotov, somigliava sostanzialmente era un movimento molto simile alla Guardia di Ferro, era un, tutto quel movimento, come dire, nazionalfascista che si aggirava, intorno ai Balcani. Questa dinamica si incontra con questi processi politici molto più grandi, molto più ampi, che danno origine alla Seconda Guerra Mondiale. E lì si collocano, in un certo senso, come dire, vivono e producono la loro dinamica, il processo, cioè il collaborazionismo col nazismo, poi una sorta di tentativo di creare un finto terzo campo tra sovietici e nazisti, che poi in realtà non c'è mai stato se non nei miti, appunto, nazionalisti dell'estrema destra ucraina, e la sua dinamica che vedemmo durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè di gruppi paramilitari utilizzati soprattutto per le operazioni più sporche, no? E soprattutto in Polonia, come dire, si subì, come dire, l'onda delle bande di bandiera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale rimase soprattutto, appunto, ancora nella zona galiziana, nella zona di Leopoli, ma in termini estremamente circoscritti questo fenomeno di nostalgia per il movimento banderista, per il nazionalismo ucraino. E in realtà non risorse neanche con l'indipendenza ucraina. È un fenomeno, questa rinascita è un fenomeno più breve scadenza, una cosa che nasce dal 2010 in poi, sostanzialmente. E che, se volessimo, io sono stato decine di volte in Ucraina, ho conosciuto, ho parlato con tantissime persone, penso di avere una dimensione. L'idea che viene propagandata, che la società ucraina sia una società fascista e neonazista, è folle. Non solo perché, come si dice, adesso si è scoperto anche, come dire, sui giornali, per cui, come dire, alla fine tutti questi partiti di estrema destra presi insieme prendono il 2,1%, no? Ma non solo per questo, ma perché la società ucraina è una società moderna, contemporanea, che difficilmente corre dietro a questi tipi di spinte. Però c'è un elemento che riequilibra il fatto che questi gruppi, hanno avuto un ruolo fondamentale nell'insurrezione alla Maidan del 2014, hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dei battaglioni volontari che hanno combattuto e si sono costruiti una bolla, uno spazio all'interno dello Stato ucraino, no? In cui hanno un certo ruolo, un certo tipo di posizioni all'interno, e che né Poroshenko prima né Zelensky poi hanno voluto mai sfidare. Zelensky alla fine ha fatto qualche piccolo tentativo, perché lui stesso si immagina che entrare nell'Unione Europea con il battaglione Azov è complesso, perché la prima cosa che porrà il problema saranno i polacchi, perché i polacchi la prima cosa che diranno il fatto che si festeggi il 9 dicembre la formazione dell'esercito nazionale ucraino come festa nazionale non ci può stare. Ma il fenomeno, diciamo, del banderismo diventato in parte ideologia nazionale è il tentativo di sostituire, come dire, la mitologia sovietica che viene respinta, rifiutata, eccetera, con qualcos'altro. Non c'è più quello, con che cosa lo sostituiamo? E per cui, in modo del tutto superficiale e in modo del tutto, secondo me, anche delinquenziale e criminale, i gruppi dirigenti dell'Ucraina, no, hanno lasciato che questo aspetto restasse intonso, con la copertura sostanziale anche di buona parte dell'Unione Europea, che non è mai intervenuta né seriamente né non seriamente per mettere uno stop al ruolo di questi gruppi e di queste organizzazioni. Secondo aspetto della domanda, la questione delle sanzioni, chiaramente le sanzioni sono già devastanti per la gente comune, perché i tassi di interesse al 20%, il fatto che l'inflazione in questo momento stia marciando al 2,5% settimanale, per cui con un aumento dei prezzi gigantesco che tocca in parte anche i prodotti alimentari, ma tocca per esempio prodotti come i medicinali, perché la Russia aveva toccato dei livelli addirittura del 90%, adesso negli ultimi anni è scesa, ma c'è il 75% di prodotti di medicinali importati dai paesi occidentali, perché con la svalutazione del rublo immediatamente sono aumentati e diventano un problema, come dire, tra virgolette, senza esagerare, comunque di vita e di morte per la gente, cioè non è tanto questo aspetto. I russi in queste ultime settimane, forse qualcuno avrà visto gli assalti ai supermercati per comprare i beni di prima necessità. Io tutti quelli che conosco si sono ammassati in casa, perché la rapida svalutazione del rublo esige che le persone cerchino di tesaurizzare qualcosa, di mettere insieme qualcosa. E naturalmente stanno iniziando a avere e avranno appunto un effetto disastroso per la popolazione russa in generale. Ecco, volevo chiederti una cosa per mettere un punto su queste questioni, perché quello che ci puoi raccontare sui gruppi di autodifesa che sono stati organizzati e che sembrano, in alcuni casi, c'entrano gli anarchici. Sì. Per due motivi: uno, perché sembra che non tutti gli anarchici sono d'accordo, e due, perché sembra che ci siano anche state delle perdite, qualcuno è già, che ci sono dei caduti. Sì. Soprattutto in Ucraina, non solo nel movimento anarchico, ma anche, chiamiamolo così, nella sinistra, potremmo dire forse la maggioranza di chi, come dire, è attivo, partecipa, ha preso sostanzialmente una posizione difensivista, cioè di schierarsi e di organizzarsi all'interno delle strutture di difesa organizzate, territoriali, organizzate direttamente dal governo. Questa è stata una posizione apertamente presa per esempio dal gruppo Revdia anarchico di Kiev, che ha anche intervento in altre città. Altre organizzazioni socialiste di sinistra hanno preso questa posizione, hanno inserito i loro attivisti all'interno di queste strutture, ritengono, poi se qualcuno poi vorrà vedere anche sul mio sito matteosca.info, c'è una vasta, come dire, ho documentato, diciamo, questo posizione, è la posizione sostanzialmente che dice che il nemico principale per l'area ex-URSS, il conflitto principale in questo momento è l'area ex-URSS, e non guardano, diciamo, alle dinamiche più complessive dello scontro in atto, che riguarda anche i paesi della NATO e a livello mondiale, essendo uno scontro che loro definiscono, come dire, tra virgolette, regionale, no? L'Ucraina è un paese che comunque mantiene una questione, rimane in qualche misura, rimane una questione di carattere dell'indipendenza nazionale, dell'autodeterminazione nazionale, e che va assolutamente sconfitto Putin. Questo è su questa, e anche ovviamente c'è un altro aspetto che bisogna anche tenere in considerazione, per la quale c'è una difesa del proprio territorio, del proprio ambito di vita, cioè nel momento in cui un esercito occupante interviene c'è anche la dimensione della mia casa, del mio quartiere, eccetera. Questo aspetto, secondo me, va messo insieme però a un altro aspetto particolarmente interessante, perché tiene insieme un po' le due cose, che sono le manifestazioni che si tengono ogni sabato e domenica in tutte le città che sono occupate dai russi. Cioè, si tratta di manifestazioni pacifiche in cui si rivendica il fatto che i russi se ne vanno. Tra l'altro, oggi in una di queste città i soldati russi hanno sparato sulla folla, hanno ucciso un dimostrante, ne hanno feriti due. E questo elemento, io penso che su questo aspetto io non sono d'accordo con queste posizioni, tanto per intenderci, però penso che debba essere sviluppato un dibattito serio, perché in un certo senso noi non dobbiamo ridurci a una posizione disfattista rivoluzionaria che poi assomigli molto a quella pacifista, cioè che si tocchi, cioè che diventi una posizione sostanzialmente passiva. Secondo me questa è tutta una discussione da alimentare e sviluppare, su cui io non né ho l'ultima parola né voglio dire l'ultima parola, però che per me mi sembra interessante. Io pensavo, se ci sono interventi, ovviamente domande, così adesso sarebbe interessante, perché ho parlato tanto io, ma no, certo, mi sono ecco scolato. Prima di passare alle domande diamo anche la parola a Francesco del Centro Comunicazione contro la Guerra, che ci dirà qualche cosa partendo proprio dalle ultime cose che Iuri ci ha accennato, cioè la questione del disfattismo, della diserzione. Allora, molto velocemente, Iuri ha parlato molto a lungo di quelle che sono le cause, diciamo, interne, i pretesti scatenanti di questa guerra. Nella riflessione che noi stiamo facendo, pensiamo che vada aggiunto a tutto questo anche il quadro internazionale in cui è maturata questa guerra. Qui non si tratta di giustificare posizioni, il Donbass, l'Ucraina, eccetera. Qui nessuno si è mosso per il diritto all'autodeterminazione di popoli, né i russi né gli ucraini. Saltiamo questo dibattito. Questa guerra, che riporta per la seconda volta in Europa la guerra dopo il secondo conflitto mondiale, è maturata in una situazione generale di contraddizioni, di scontri tra i capitalismi dominanti del mondo, e all'interno di una situazione che noi vediamo dal punto di vista economico, sociale e generale, che sta venendo meno quell'equilibrio basato sul perno degli USA come la cosa fondamentale, il perno fondamentale di un vecchio equilibrio che non ci sarà più. Dall'89 sta sparendo tramite guerre, eccetera, che sono state localizzate in angoli arretrati del globo e che adesso tornano qua. Per certi versi si può dire con chiarezza: gli ucraini stanno pagando questa cosa, sono sottoposti a questa guerra e combattono per il fronte NATO, per comodità di espressione, sono coinvolti in questa cosa. Ma noi abbiamo assistito in questi anni a una serie di scambio di mosse, di intervento russo, per dire, in Libia, in Siria, gli Stati Uniti, la NATO in Afghanistan, così via. Non vi rifaccio tutta la storia che conosciamo tutti. Mettiamole in relazione con l'Ucraina. L'Ucraina nasce anche da questo. È un punto di frattura fondamentale di questo scontro. È esploso, è andato avanti. E noi pensiamo che, al di là di poter fare previsioni, questi signori, questi che governano il mondo, ci stanno portando alla terza guerra mondiale. Non sappiamo quanto tempo manchi, ma stanno creando le condizioni perché ci si arrivi. Oggi come oggi ancora non esiste, come si dice, l'avversario in grado militarmente di affrontare gli Stati Uniti, almeno nominalmente, ma si stanno muovendo in questo senso. Cioè, partiamo da una considerazione: noi in Italia oggi siamo praticamente in guerra, il resto sono cazzate. Quando partono gli aiuti militari da un paese verso un altro, tu stai partecipando alla guerra. I russi possono andare avanti a far finta per un po' di tempo che questo non avvenga, come la NATO ha fatto finta che non facessero i russi nelle guerre di Jugoslavia. Ma la prima volta che succede qualche scontro e che muore qualcuno degli altri soldati, che cosa avverrà? Non vanno avanti. I delinquenti delle due parti parlano di eventualità di guerra diretta, di possibilità di scontro. È questo che ci stanno creando, è questo che noi dobbiamo considerare. Sta precipitando sempre di più. E il problema politico grosso che noi abbiamo è che di tutta la mobilitazione che c'è stata qui in Italia e nel resto d'Europa, la maggioranza, mentre parla di pace, prepara la guerra. Si sta schierando con la NATO. Se agli ucraini può essere, non dico concesso, ma si può comprendere che chiedano l'intervento della NATO a fare la copertura aerea o addirittura le truppe in queste situazioni. Ma di fatto buona parte del pacifismo che si sta muovendo in questa fase è sorretto da forze che stanno sovvenzionando e dando l'assenso alla fornitura di armi all'Ucraina, alla partecipazione alla guerra. Il bilancio italiano mi sembra che vada da 25 a 38 miliardi di spese militari verso il 2%. La Germania si riarma in violazione della Costituzione. Che cosa succede? Che cosa si sta parlando? E dobbiamo combattere per questo. E gli ucraini devono combattere per cosa? Devono combattere perché entri la UE, perché la borghesia che c'è, gli oligarchi ucraini vedano rimesso il loro debito tramite gli aiuti della UE, oppure che interesse hanno ad avere la NATO, una banda di delinquenti che ha bombardato il mondo in tutto questo periodo. I giornali di questi giorni parlano, i russi usano le bombe al fosforo. E che cosa ha fatto la NATO a Fallujah o negli altri giri? Ma vi ricordate che al di là della barbarie di questa guerra, in Jugoslavia si facevano 40 giorni di bombardamento consecutivi come scelta tecnica su Belgrado, altro che storie. E siamo delinquenti che fanno le stesse cose. I russi, come la NATO, come... noi non abbiamo niente da condividere, da combattere con loro. E non ci resta che una scelta che è stata distrutta nel passato, quella del disfattismo, quella di non stare con nessuno dei due fronti, nessuna equidistanza. Non è un problema di né con Putin, né. È contro Putin, contro il governo Zelensky, contro i governi europei, contro la NATO, contro il governo italiano. Ma noi possiamo dire con certezza che questa assenza di partecipazione diretta non vede invece che i radar che ci sono a Sigonella del Nomuas non servano alla copertura delle operazioni di monitoraggio dell'Ucraina? Oppure ci raccontiamo, torniamo al passato, ve lo ricordate Cossutta, il buon Cossutta, quando ci fu la guerra in Jugoslavia e loro erano al governo, ebbe la faccia tosta di dire: ma l'Italia non partecipa ai bombardamenti. E infatti i nostri aerei facevano solamente la copertura aerea di quelli americani e inglesi che bombardavano. Ma ci vuole anche questo in guerra. E in guerra ci vuole anche chi ti fornisce le armi. Noi siamo già in guerra. E questo è l'aspetto, secondo me, centrale che va preso. Il disfattismo, è vero, è difficile. C'è stato anche chi all'interno dei blog ha parlato: se fossimo in Ucraina, se succedesse qui, cosa faremmo? Dovremmo iniziare, se non hai la forza organizzativa, a disertare. Se hai la forza organizzativa, a difenderti in maniera diversa, fuori da qualunque collegamento con l'esercito ufficiale, con l'esercito del governo. In Ucraina sta saltando fuori questo dibattito che richiamava Yuri prima. Non si affronta con le battute o col nullismo, ma è una cosa che il movimento operaio c'ha da 60 anni di discussione. Questi compagni anarchici russi o anche quelli bielorussi che ho potuto leggere in inglese, che, no, cosa dicono? Il nemico principale è Putin. Quindi tutto quello che serve a buttare giù Putin, tra virgolette, lo schematizzo, ci va bene. No, non può essere così. Non possiamo collegarci a chi fa la guerra. Noi dobbiamo fare la guerra sociale. La guerra sociale non si ferma con la guerra. Questa è una cosa che dovremmo pensare da quanto è avvenuto dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla Spagna del 1936. O entriamo in questo tipo di cosa e oggi con questa difficoltà iniziamo a dire guardate che è così, non abbiamo niente da guadagnare, da avere il fatto che l'Ucraina entri, ma non sono gli ucraini a guadagnare qualcosa, a entrare nella UE, perché andrebbero avanti con la stessa tipo di precarietà che hanno adesso, con la precarietà che c'è da noi, con l'emigrazione, con la subordinazione alla prostituzione delle donne a scala internazionale, è tutta questa cosa a cui bisogna dire no e non smette durante la guerra. Se uno oggi si sente il pacifismo, se uno ha voglia di sentirsi Radio Popolare, specie la gente che parla, che interviene, è una cosa spaventosa. Il diritto alla difesa, il diritto alla difesa deve essere sorretto dalle armi, non puoi dire. Stanno preparando la guerra e in questa guerra saremo travolti tutti se non iniziamo a dire no, contro la guerra si fa il disfattismo, contro la guerra non ci stiamo, noi facciamo la guerra di classe. Chiudo due cose perché l'ho fatta lunga e ci sarà da fare il dibattito. Ci sono tanti argomenti che dovremmo affrontare. Si parla di economia di guerra, dei problemi delle sanzioni e degli effetti qua. Io dico solo, non abbiamo sviluppato, ma è un argomento fondamentale. C'è qualcuno, pochi, che stanno guadagnando in maniera spaventosa dalla guerra. E da noi fanno tutta la menata sulla Russia che incassa i soldi, eccetera, tramite il gas. E in questo momento uno di questi paradossi, questo capitalismo, è che c'è un oleodotto che attraversa l'Ucraina, che gli ucraini non toccano, che i russi non toccano e che l'Europa non tocca e sta pompando gas. Ma chi ci guadagna? I russi o anche qualcun altro? Penso che sia piuttosto chiaro a tutti che a noi abbiamo visto adesso le bollette che salgono, la benzina che cresce, ma il gas, petrolio, eccetera, non sono acquistati dall'ENI e dallo Stato italiano a prezzi del momento, a prezzi spot. Sono su contratti di lungo periodo, secretati tra l'altro per quanto riguarda i prezzi, e come diceva in questo caso aveva ragione Putin a suo tempo e l'ha detto in TV, gli italiani mica stanno pagando questi prezzi adesso, ne pagano altri, però noi in bolletta ci troviamo questi o ci troviamo i prezzi, e non è che sta aumentando solamente il gas che viene dalla Russia, i giacimenti che ha l'ENI in giro per il mondo, ci fa pagare la stessa cifra quando arriva, quelli che hanno i Moratti e gli altri, paghiamo la stessa cifra, questi stanno guadagnando dalla guerra e dalla prosecuzione, più durerà la guerra, più faranno affari su questo tutto il settore dell'energia, più chi produce armi guadagnerà perché vanno in Ucraina, vanno cose spaventose di guerra. Noi dobbiamo dire no. No a tutto questo, iniziare il disfattismo. Chiudo solo ricordando che poi il 2 aprile alle 14.30 ci sarà in Piazza Affari una manifestazione contro la guerra, contro l'ENI, contro chi specula su queste cose. Bene, grazie. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, adesso poi vedremo, perché se arriva anche qualche domanda dalla rete, vabbè. Comunque se qualcuno ha qualche domanda può prenotarsi, alza la mano, viene qui, deve venire qua, no? Sì, se uno deve venire qui perché c'è un problema di microfono, che non abbiamo ancora quelli direzionali che sono cari un giorno forse. Sì. Aspetta, sposta. Tieni, te l'ho anche disinfettata. La disinfestazione costa. Siedi. Niente. E premetto, io ho passato gli ultimi 20 anni in Venezuela. Notorio produttore con una delle riserve più grandi del mondo. Mentre l'Europa, che ha tanto, è brillante, i lumi, l'intelligenza, il passato, può vantare questo genere di cose, però il buon Dio all'Europa non gli ha dato energia, non c'ha gas, non c'ha petrolio e deve campare con un modello industriale e tecnologico che prevede il petrolio, il gas, eccetera, eccetera. 10 giorni fa da Washington hanno mandato una delegazione in Venezuela per andare a dire: ragazzi, ma noi dai, scordiamoci il passato e noi vogliamo riallacciare i rapporti e siamo pronti a importare, a comprarvi tutto il petrolio che, di cui abbiamo bisogno. Forse non si ricorderà o ci si dimentica che i venezuelani hanno vissuto 3 anni e ancora tuttora con i porti bloccati, con le relazioni commerciali bloccate, con i pagamenti, la questione dello SWIFT, che c'hai i soldi però compri e se paghi con il circuito del dollaro ti sequestrano i tuoi averi. A Bruxelles ci sono 22 miliardi di dollari del popolo venezuelano, non degli oligarchi o del piccolo Hitler delle sabbie o delle nevi, o no. E la guerra di rapina non si restituisce nulla. Noi non possiamo appoggiare neanche un secondo il cosiddetto Occidente, cioè un modello liberista basato sull'individualismo assoluto e con la scomparsa totale dello Stato. Dall'altra parte abbiamo la Cina, che è un modello liberista parziale che però prevede il mantenimento di alcune funzioni fondamentali dello Stato. Cioè la guerra è ampia, è cominciata con le armi, è cominciata con il Donbass, però questa è una prima tappa. In Europa occidentale, in questa parte, sentiremo tanto i prossimi anni una regressione economica che metterà in discussione molte delle basi su cui finora ha funzionato la nostra vita, le nostre relazioni sociali. Cioè Il modello che scricchiola, traballa. Non si può fare la guerra totale, spettacolare, mediatica, quando non hai una goccia di benzina, quando non puoi produrre l'elettricità con il maggiore fornitore, e poi venire a dire che in 4 settimane arriverà dall'America. Queste barzellette l'aveva già raccontato anche Obama, però il quadro è molto più ampio, perché dopo le armi da fuoco e i missili si apre il fronte monetario delle divise, delle monete, e come si fa, dunque, gli ex globalisti, il modello globale di sviluppo, di aprire società aperte, libero commercio, progresso indetenibile per il futuro, e adesso rendere insicuri la coesistenza, chiudere, decidere non perché lo decide l'ONU, ma perché lo decide un gruppo di stati che devono giustificare il loro fallimento, prendendo delle misure di fatto che non competono a loro secondo il diritto internazionale. Però il diritto purtroppo non conta né quello nazionale né quello internazionale al punto in cui siamo giunti. E quindi siamo a uno scontro in cui non solo l'economia, ma vanno ridefiniti i rapporti di forza, in cui una cosa è chiara: nel 1945 è venuto fuori un vincitore, nel 2020 sono 10 anni che non è in grado di, non è più possibile per lui decidere su ogni problema che riguarda il mercato mondo. Prima si mettono ad un tavolo e regolano le questioni fondamentali, perché la materia prima non è pagata niente al terzo mondo, nulla. I guadagni vanno a chi la deposita, a chi la trasporta, a chi la distribuisce nelle città. Non va bene questo. E arriverà di peggio, ma non per pessimismo lo dico, perché è il modello che hanno applicato il polo liberista anglosassone, cioè la guerra e la violenza è la sua leva principale. E non si ferma, solo l'oligarchia europea può credere che e fare parzialmente un cammino comune con questa gente. E in Ucraina dovrebbero, questo è quello che penso che siano delle illusioni, riporre delle speranze sull'Europa, sull'Unione Europea, sull'Occidente, che sono uno sinonimo dell'altro, e il modello capitalista fallimentare del liberismo totale, che traballa, che zoppica, e che quindi può sorreggersi e sopravvivere solo con un ricorso sempre più aperto e più alto alla violenza organizzata. Dovremmo essere capaci di i movimenti popolari, i movimenti sociali dell'America Latina, dell'Europa, dell'Europa orientale, dovremmo essere capaci di avere uno sguardo complessivo d'assieme sulle dinamiche, su chi si muove, sì, commettendo errori, però si muove, resiste, fa. E mi piacerebbe che questa fosse l'opportunità di questo, che il proletariato davvero si conoscesse al di là degli schemi ideologici. Grazie. Bene, se c'è qualcun altro, il microfono è a disposizione, non c'è niente online. No, io volevo fare una domanda a Yuri, che magari ha delle conoscenze sicuramente più alte delle mie. Ecco, leggendo da in alcuni siti, così compreso il tuo, si capisce che ci sono appunto alcuni anarchici, questa è una cosa che mi interessa direttamente, ci sono alcuni anarchici che si sono intruppati nell'esercito ucraino, però ci sono anche altri anarchici che rifiutano questo intruppamento e stanno cercando di costruire qualcosa loro. Ecco, vorrei sapere se tu hai la conoscenza delle diversità, delle analisi tra queste due, diciamo, entità, e nel caso anche come se relazionano questi due gruppi. Ecco, grazie. Allora, rispondo subito, perché io tendo sempre a rispondere subito in modo tale che poi, se si accumulano delle domande, poi magari la risposta non è. Naturalmente esiste un dibattito molto grosso, perché per esempio soprattutto gli anarchici russi, per esempio gli anarco-sindacalisti del CRAS e di altri gruppi hanno assunto una posizione molto critica rispetto a questo difensivismo, basandosi sostanzialmente su un paio di argomentazioni centrali. Una delle due argomentazioni principali è che non ci troviamo di fronte, prima di tutto, a una situazione di una guerra che però ha anche elementi di guerra civile di classe, cioè per esempio come avvenne per esempio durante la Rivoluzione Spagnola, no? In cui degli elementi dello scontro potremmo dire che si andava formando interimperialistico, che poi sarebbe esploso nella Seconda Guerra Mondiale, all'interno di essi si producevano certe dinamiche. Loro sostanzialmente dicono: per adesso, in questo momento, elementi significativi di lotta di classe non ci sono né in Russia né in Ucraina, per cui questo è il primo elemento. Il secondo elemento è direttamente collegato, come dire, all'esperienza, alla dinamica, per esempio, della guerra civile spagnola, perché all'interno della guerra civile spagnola abbiamo un'organizzazione armata autonoma, no? Avevamo un'organizzazione autonoma che erano, per esempio, le strutture della CNT Fai Militari, oppure del POUM, eccetera, che agivano, come dire, per certi versi autonomamente e indipendentemente dal governo repubblicano. Sappiamo che non era proprio precisamente così, però diciamo che c'erano degli elementi di questo dato. Qua invece si tratta di essere organizzati dentro delle strutture territoriali che però sono gestite direttamente dal governo, cioè non hanno nessun tipo di né di autonomia organizzativa né di autonomia politica. Questo, diciamo, alla grossa. E questo però, io essendo in collegamento con questi compagni, parlandoci spesso anche quotidianamente, al di là dei documenti che vengono scritti, insomma, ci si scambia dei punti di vista e delle opinioni, soprattutto questi compagni russi che sono diciamo, su una posizione disfattista, ritengono che non vada chiuso il dibattito con questi altri, perché la situazione è estremamente, estremamente fluida, è estremamente mobile, cioè noi potremmo avere, bisognerà vedere per esempio quanto durerà questa guerra, che ricadute avrà, l'approccio della massa della popolazione, per esempio ucraina, tanto più si renderà conto o quanto si renderà conto che, insomma, l'amicizia della NATO e l'amicizia dei paesi occidentali è un'amicizia pelosa, no? Che vogliamo riempire di armi, sì, qualche aiuto umanitario e il gioco finisce qua, ma voi siete una piazza d'armi per, come dire, in un combattimento sostanzialmente interimperialista, no? Questo è l'elemento. Il secondo elemento che andrà tenuto in considerazione, se la guerra dovesse proseguire e se dovesse proseguire più a lungo, se per esempio un tipo di manifestazioni contro le occupazioni, come si stanno determinando, manifestazioni popolari, no? Sì, che portano in piazza la bandiera ucraina, ma che esprimono già, come dire, un rifiuto che ha un qualche livello di, come dire, popolare, di auto-organizzazione, assumesse nuove dimensioni. Allora questo potrebbe porre delle questioni in modo dal punto di vista tattico diverso. Se il movimento contro la guerra in Russia, che, attenzione, dopo ha subito una forte repressione dopo le prime settimane di mobilitazione, oggi c'è una cappa, no? C'è una, veramente una cappa pesantissima, perché è vietato scrivere qualsiasi cosa sulle operazioni militari in Russia, se no tutti presi dai 3 ai 15 anni di prigione, non si può scrivere assolutamente, per cui qualsiasi tipo di organo di stampa, dai liberali alle forze di estrema sinistra, hanno la bocca tappata. In questa situazione però, attenzione, questo è un movimento con enormi potenzialità, cioè il movimento di opposizione che può nascere in guerra contro la Russia ha delle potenzialità grandissime, che potrebbero essere delle dimensioni della guerra del Vietnam, no? E allora questo potrebbe immediatamente avere delle ricadute, e io penso che dato che si collegherebbe al discorso delle sanzioni eccetera eccetera, potrebbe assumere delle dimensioni sociali. Allora dentro questa dinamica anche quello che avviene in Ucraina, no, potrebbe avere una dinamica, ma lo stesso quello che dicevo anche sul Kirghizistan, cioè sul Kazakistan. Teniamo presente che una notizia che non so quanto sia passata, io è da ieri che la sto cercando di riportare, che l'esercito azero sta marciando in territorio armeno e ha già conquistato alcuni paesi. Stanno vedendo che la Russia è debole, è concentrata là e stanno venendo avanti. Ma teoricamente la Russia, dal punto di vista degli accordi militari, dovrebbe intervenire in Armenia, ma non lo sta facendo. Cioè siamo di fronte a una situazione dell'ex URSS che rimane estremamente, come dire, mobile e fluida. C'è uno spostamento, per esempio, di truppe afghane in direzione dell'Uzbekistan recentemente. Ci sono i talebani che hanno mosso 10-15 mila uomini verso l'Uzbekistan. Cosa vogliono fare? Ma la situazione è estremamente complessa, estremamente dinamica. Qui bisogna stare molto attenti e, per ritornare alla domanda, l'idea, insomma, appunto, di questi compagni è di, in questo momento, di mantenere definite le posizioni completamente diverse su questo aspetto, ma mantenere dei canali di comunicazione. Allora, io vorrei portare la discussione anche sulla nostra situazione che stiamo vivendo qui da noi. Noi siamo da 2 anni in una situazione di stato di emergenza. Stato di emergenza giustificato con motivi sanitari. Adesso non entro nel discorso, che sarebbe troppo lungo, secondo me è una copertura. Questa, diciamo, copertura sanitaria di altri scopi, cioè di altri scopi che sono quelli di instaurare, al di là delle parole così al vento sulla democrazia, un sistema autoritario. Noi vediamo da due anni che il governo, adesso poi con Draghi non ne parliamo, fa il bello e il cattivo tempo con decreti legge eccetera eccetera. Quindi questa differenza fra democrazia e autocrazia, insomma, proprio non la vedo sostanzialmente. Scusa. Adesso finisce il 31 marzo lo stato d'emergenza sanitaria e inizia subito quello della guerra, fino al 31 dicembre, se non vado errato, è stato prorogato. Ma già l'economia di guerra era già cominciata, cioè vi ricordate all'inizio della pandemia, 2 anni fa, il linguaggio guerresco che è subito venuto fuori, ci sono gli eroi, ci sono i disertori, ci sono... Cioè, un linguaggio guerresco che era un surrogato, diciamo, della guerra permanente, che già, come diceva Francesco, c'era già dall'inizio del millennio, solo che si svolgeva in luoghi poco conosciuti, diciamo, perlomeno mediaticamente, Siria, Libano. Dice, ma noi c'entriamo poco, dice, cioè la maggioranza della gente quasi non ne sapeva niente. Non dico che è proprio così, comunque. La guerra permanente è arrivata già 2 anni fa, non solo in Italia, ma anche in genere nei paesi europei o nell'Occidente. E quindi è cominciata con tentativi di riconversione industriale. Le mascherine in Italia non si producevano e quindi venivano importate, poi con tutte le speculazioni del caso, eccetera, eccetera. Perfino la Fiat, ex Fiat, aveva, diciamo, cominciato a produrre delle mascherine che poi si sono rivelate pure di fuffa, eccetera, eccetera. Quindi riconversione industriale, coprifuoco è una cosa, diciamo, tipico dell'economia di guerra, lockdown come lo chiamavano. Poi è cominciata subito dopo la speculazione sui generi di prima necessità, sulle fonti energetiche. È arrivata l'inflazione che adesso diventa anche galoppante anche da noi, non solo in Russia. È arrivata anche, e ci siamo con l'ultima dichiarazione che ha fatto in Parlamento Draghi, con il riarmo, diciamo, adesso non esageriamo con questa parola neanche, cioè la spesa militare è stata portata, diciamo, con una misura del Parlamento, ancora non è proprio legge, comunque sarà così, al 2% del PIL, cosa che già era stata ventilata dal presidente Trump, non ventilata, cioè quasi imposta dal presidente Trump quando era ancora presidente, perché dice che le spese della NATO non le dobbiamo sostenere solo noi degli Stati Uniti e dovete partecipare pure voi, quindi portate la spesa al 2% del PIL, cosa che altri paesi hanno fatto, l'Italia ancora non l'aveva fatto e lo fa adesso. Si può discutere sull'entità di questo aumento, certamente non è quello che fece la Germania nazionalsocialista ai tempi degli anni 30, lì il riarmo è stato molto più cospicuo e molto più, diciamo, tenendo sotto controllo anche le imprese private, non privatizzando, cioè, e non nazionalizzando. La Germania nazionalsocialista non ha nazionalizzato niente, anzi ha privatizzato, c'è un libro che lo descrive bene, la politica economica del nazionalsocialismo. Quindi, però, se le imprese private volevano far profitti, dovevano piegarsi all'esigenza dell'economia di guerra, tutti. Non solo, importavano anche il petrolio da chi? Da Rockefeller, cioè dal, allora si chiamava Exxon, non mi ricordo. Cioè, quindi l'economia di guerra, se proprio il riarmo si porta a un livello che porta effettivamente a una guerra immediata, è molto più cospicua, però diciamo siamo su quella strada. Ora, questo aumento della spesa militare, sono 100 milioni e passa euro al giorno di spesa militare adesso con questi aumenti. Quindi verrà a discapito di tutto il resto della spesa pubblica, quindi pensioni, sanità, istruzione. Parlo della sanità, che è un campo, insomma, che io conosco meglio. Cioè, già il PNRR, famoso PNR, dedicava alla sanità un misero 8% dei 250 miliardi di euro previsti. Quindi non c'era nessun tentativo con quel PNRR di diciamo porre quantomeno un inizio di trasformazione della sanità dalla privatizzazione che c'è stata fino adesso a un intervento di nuovo pubblico e quindi a una sanità universale, gratuita, eccetera, come si dice, no? Ma adesso sarà ancora peggio. E adesso vediamo che inaugurano queste case della salute e tagliano i nastri, ma poi sono vuote. Quindi, diciamo, questa è una delle manifestazioni di cui parlavo prima. A ogni modo, quindi il PNRR famoso di Draghi, che era venuto fuori perché lui doveva fare questo grande sviluppo del capitale, eccetera, è già lettera morta. Cioè non esiste la transizione ecologica, cosa? Cioè l'eolico, non so, il solare, qui c'è la questione, il gas, l'estrazione di petrolio, c'è la concorrenza a chi si accaparra le ultime scoperte fatte a largo dell'Egitto, a largo di Cipro, eccetera, eccetera, il Mediterraneo è diventato terreno di scontro per chi si accaparra queste risorse. Cioè la transizione digitale a cosa serve? Al controllo sociale, cioè, ammesso che poi venga fatta, comunque è quello che poi vedremo, servirà come è servito il Green Pass, cioè è servito a dividere i lavoratori, è servito a togliere il lavoro, a sospendere dal lavoro 500.000 lavoratori, sono cifre queste, no? Semplicemente perché non avevano obbedito a un ordine. Si può discutere, adesso io non voglio fare quello che sta da una parte, diciamo, però la situazione è questa. Recentemente in un comune in Emilia Romagna, a Fidenza se non sbaglio, il comune o le case popolari, insomma, hanno fatto una classifica a punti fra gli occupanti, non gli occupanti, quelli regolarmente che hanno la casa popolare, se più o meno partecipano alle attività del condominio, o pagano in tempo tutte le spese, eccetera, eccetera, altrimenti li cacciano fuori. Cioè, siamo a quello che in Cina sembra che facciano, cioè c'è una classifica appunti dei cittadini che, se abbidiscono agli ordini, hanno certe benefit e se no non li hanno. Insomma, siamo su questa strada qui, l'economia di guerra è questa. Poi il riarmo, cosa vuol dire? Draghi dice il riarmo trainerà, cioè gli ordini che vengono dalle industrie belliche, quindi Leonardo Finmeccanica, quindi il riarmo tedesco, arriveranno degli ordini per le nostre piccole e medie imprese che quindi ci porteranno allo sviluppo. Non è vero, cioè, sappiamo bene che la produzione di armi, per quanto qualche capitalista ci guadagna e come, ma per il capitale sociale è una perdita, cioè è un consumo improduttivo di plusvalore, diciamo proprio in senso marxiano, che non porta a uno sviluppo ma a una distruzione di plusvalore. Infatti le armi, una volta fatte, devono essere distrutte. Come? Facendo la guerra. Quindi droni, missili, una volta fatti, devono essere impiegati. Questa, diciamo, è la guerra permanente che è stata fino a oggi e che continua adesso nel cuore dell'Europa. Se arriveremo a una terza guerra mondiale, non lo so. Le distruzioni che, certo, il capitalismo con la guerra in genere risolve la sua crisi, come è stato nella seconda guerra mondiale. Una guerra mondiale oggi, atomica, comporterebbe delle distruzioni che non si risolve nemmeno il capitalismo, cioè c'è la distruzione, basta. Può sempre succedere che qualcuno pigge il bottone, però diciamo razionalmente penso che nessuno è così propenso a farlo. In effetti anche la NATO adesso ha detto sì, vabbè, Putin sta sbagliando, però noi non interveniamo, Biden ha alzato la voce eccetera, però non è che sta facendo qualcosa. L'Europa, in quanto era un po' indietro con il riarmo, dice beh adesso ci riarmiamo un po', mandiamo le armi eccetera, però non penso che ancora sia a livello di contrastare gli Stati Uniti, non se ne parla proprio, neanche la Cina lo è in grado. Quindi diciamo le prospettive di una guerra mondiale sicuramente ci sono, però non sono così immediate. Noi dobbiamo, facendo una, invece ritornando alla nostra situazione, dobbiamo lottare contro la situazione di emergenza che invece è molto concreta. Un intervento molto breve. Noi come centro di documentazione contro la guerra nel corso di questi anni ci siamo occupati dei terreni di guerra aperta ed in particolare della Libia, con un'attenzione specifica a quello che è l'intervento dello Stato italiano sui terreni di guerra. E abbiamo poi fatto una riflessione su quello che è l'altro aspetto della guerra guerreggiata, quello nei confronti delle masse nel proprio rispettivo paese. E abbiamo cercato di dare un quadro di quello che è stato in Italia l'intervento dello Stato italiano nei confronti delle masse, la guerra che ha portato lo Stato italiano nei confronti delle masse. Oggi noi siamo qui per discutere di una questione che è di rilevante importanza, non solo sul terreno della guerra guerreggiata, ma anche per i risvolti che questa guerra, la guerra che si sta combattendo in Ucraina, avrà sulle masse. Noi abbiamo ascoltato con attenzione Iuri quando, introducendo questo argomento, ci ha parlato di un aspetto che è rilevante, che è quello che è successo in Kazakistan, dove, come sempre accade, quando si tratta di intervenire nei confronti di una rivolta operaia, il potere si coalizza, quali che siano. Possono anche essere in guerra tra di loro, ma nel momento in cui c'è un'insurrezione o comunque c'è una rivolta operaia o delle masse, i poteri si coalizzano. Perché questo? Noi in questo momento abbiamo di fronte proletari ucraini e proletari russi che si stanno ammazzando reciprocamente. Per chi? Per le proprie rispettive borghesie, per i propri rispettivi regimi autoritari, entrambi piegati sulla necessità del loro rispettivo capitalismo finanziario e che hanno portato avanti in questi anni una politica assolutamente antioperaia, assolutamente negativa nei confronti dei lavoratori. Che cosa ci aspetta? Oggi io ho letto una notizia che, se non è pura propaganda, e potrebbe anche essere pura propaganda, intendiamoci, degli occidentali, se così non fosse, è una notizia interessante. Un colonnello russo ci ha rimesso le piume perché un soldatino russo ha probabilmente gli è scappato il pedale della frizione e con il suo tank, come diceva prima il compagno Nandru, con il suo tank l'ha messo sotto. Può essere una notizia di pura propaganda, intendiamoci, buttata lì dagli occidentali per la polemica che stanno facendo sull'incapacità eccetera eccetera dell'esercito russo, dell'armata russa, ma potrebbe anche essere invece un sintomo che qualche cosa anche lì sta cambiando e noi non possiamo che augurarci che questo avvenga da una parte e dall'altra, perché la condizione nella quale si stanno muovendo i proletari ucraini e i proletari russi è quella di un massacro del tutto inutile tra di loro, perché non porterà niente. Il proletariato ucraino ha già fatto l'esperienza della UE. È dal 2014 che l'Ucraina è in questa situazione. Tutti i governi, e poi magari Yuri ce lo racconterà meglio, tutti i governi che si sono succeduti nel tempo sono sempre stati dei governi che hanno ridotto il proletariato ucraino in condizioni sempre più pietose. Se l'Ucraina è un paese di 46 milioni, se non sbaglio, è ridotta ad aver avuto diversi milioni di persone che sono dovute emigrare prima di questo ultimo episodio, di questa ultima necessità, è perché le condizioni all'interno della nazione ucraina erano condizioni per loro invivibili. Quello che sta succedendo adesso noi non sappiamo se finirà in tempi brevi o se proseguirà ancora a lungo, ma questo comunque finirà, questa guerra comunque sarà posta la condizione per un cessate il fuoco, piuttosto che per un armistizio, piuttosto che per una pace, è solo un momento per il proseguimento della guerra che, come diceva prima Francesco, i vari sistemi capitalistici stanno cercando di portare fino a quelle che per loro sono le estreme conseguenze, cioè la terza guerra mondiale. Questo è solo un capitolo di una serie ininterrotta di conflitti che si sono sviluppati in questo ultimo periodo. Fa parte di un arco che viene su dalla Libia, passa per tutto il Medio Oriente e arriva fino alla Turchia, per gli Stati Uniti con un obiettivo chiaro, almeno per il momento, che è quello di cercare di trovare tutti i modi e tutti gli elementi per porre in Europa le condizioni per cui l'Europa non sia più un competitore degli Stati Uniti. In questo modo può far sì che tutte le proprie energie siano rivolte nei confronti di quello che temono, ma nel tempo ancora non è una cosa che si può realizzare in tempi brevi, nei confronti di quello che potrebbe essere il suo vero competitore. E comunque l'asse, diciamo, mondiale si è spostato sul Pacifico e le loro intenzioni sono quelle. Creare in questo momento una situazione in cui gli Stati Uniti riescono a legare al proprio carro quello che non è l'Unione Europea, perché non esiste l'Unione Europea, ma semplicemente le tre potenze, più potenze per modo di dire, ma comunque rilevanti, cioè Germania, Francia e Italia, al loro carro, e in questo momento voi avete visto tutti quanti che si sono piegati, sia il governo tedesco sia quello italiano, alle esigenze degli Stati Uniti d'America. Serve a questo punto agli Stati Uniti d'America per avere la tranquillità di non avere un fronte da questa parte e di poter realizzare i loro obiettivi che sono da quell'altra parte. Cosa succederà? Noi sappiamo una cosa, che comunque vada a finire questa guerra, non è detto che quest'inverno noi avremo il riscaldamento. Non è detto. Perché quello che stanno promettendo gli americani o i canadesi è aria fritta, lo diceva prima anche Visconti. Noi abbiamo la necessità di avere, noi abbiamo un consumo di 75 miliardi, mi pare, di metri cubi di gas. Gli americani ce ne promettono 15 per tutta l'Europa. Che ci facciamo? Che cosa sta già dicendo il nostro governo? Razionamenti. Ci sta già parlando adesso di razionamenti e ci stanno parlando di aumenti di tutto quanto. Quindi quello che noi possiamo aspettarci da comunque finisca questa guerra, perché in ogni caso il passaggio del PNRR all'eolico piuttosto che è aria fritta, cercheranno ugualmente di tenerlo in piedi per quello che è possibile, ma nell'emergenza, nella situazione attuale, questo inverno, cosa succederà? Cosa avremo da affrontare? Ma non coloro che i soldi ce li hanno, cosa avranno da affrontare le masse? Cosa avranno da affrontare gli operai? Cosa avranno da affrontare i lavoratori? E qui c'è il risvolto della guerra interna, che noi già vediamo in Russia, che non è solo la repressione nei confronti di coloro che manifestano contro la guerra attuale, ma è per una situazione sempre più insostenibile, quello che è successo in Kazakistan, quello che è successo anche in Siberia, se non sbaglio recentemente. Noi avremo una condizione nella quale dovremo chiaramente fare i conti con una situazione che necessiterà per forza di cose di una risposta da parte degli operai, dei lavoratori italiani. L'indicazione che diceva prima all'inizio Francesco, che l'indicazione unica che consente di uscire dalle sacche del nazionalismo, e cioè il disfattismo, il rivolgere le armi nei confronti dei propri comandi generali e non nei confronti dei propri fratelli di classe, è l'indicazione che noi, nel nostro piccolo, per quel poco che possiamo noi fare qua per dare una mano, se possibile, e non facendo le manifestazioni per la pace che sono solo delle manifestazioni guerresche camuffate, è quello di poter dare un'indicazione ai proletari ucraini e ai proletari russi di non massacrarsi per le rispettive borghesie, perché questo problema lo potremo avere noi tra non molto, e se non vorremmo essere noi ad avere quello stesso problema tra non molto, dobbiamo già abituarci ad avere questo schema nella testa, a non cadere in nessuna forma di nazionalismo, in nessuna forma di sciovinismo, e a fare la battaglia principale, perché questo è, per me che sono ancora un leninista, per molti è un peccato ma per me non lo è, il nemico è in casa propria e noi dobbiamo battere il nostro nemico. C'è qualcun altro? Io volevo chiedere due precisazioni a Yuri su alcune cose che ha già accennato. La prima è sulla composizione sociale delle mobilitazioni che ci sono in questo momento in Russia. C'è chi in Italia le descrive come sostanzialmente mosse o egemonizzate da una certa classe media metropolitana che guarda Occidente, più o meno finanziata dall'Occidente, e quindi ti chiederei quanto c'è di vero in questa descrizione o quanto c'è di più interessante per la nostra parte. E la seconda domanda è cosa stanno facendo i compagni anarchici, non solo in Ucraina, che non stanno assumendo la posizione difensivista che dicevi prima essere maggioritaria. Grazie. Da quando sono sorte, come dire, diciamo, l'ultima ondata di potremmo iniziare sostanzialmente dal 2017, che sono iniziate delle proteste in Russia, soprattutto nelle grandi realtà metropolitane europee. Inizialmente basate, diciamo, anticorruzione, di ampi strati giovanili metropolitani, che ridurre, come dire, a un cosiddetto ceto medio urbano liberale è del tutto limitante e fuorviante. Perché? Perché Navalny è riuscito a organizzare negli anni, a partire sostanzialmente dal 2009-2010, quando abbandonò, come dire, prima ebbe una fase sostanzialmente liberale classica, per cui faceva parte di Yablok, di un partito sostanzialmente liberale tradizionale, per poi spostarsi su posizioni molto vicine all'estrema destra e poi, come dire, avere una svolta verso un approccio, come dire, occidentale, liberale, eccetera. Però ha strutturato un'organizzazione politica, l'unica organizzazione politica che oggi esiste in Russia, che è strutturata in chiave nazionale, che ha una ramificazione sul territorio, che è tecnologicamente organizzata, cioè nel senso che, per esempio, ha fatto sempre un gran uso, viene conosciuto anche come blogger, un gran uso della rete, molto moderno, molto contemporaneo, e che nelle diverse realtà ha messo insieme in modo populistico diversi tipi di spinte, diversi tipi di tendenze, per cui se mentre c'è stato un momento nel 2018 che lui ha apertamente sostenuto Bernie Sanders, ha detto no, Bernie Sanders per me è interessante il tipo di approccio che ha. Per cui non voglio dire che questa sia la sua unica tendenza, ma lui un po', se volessimo avere un punto di riferimento, ma così tanto per capirci, no? Ecco, il Movimento 5 Stelle sarebbe, come dire, il suo, come dire, il tipo di approccio. In una situazione come quella russa è riuscito a incanalare delle spinte molto diversificate tra di loro, in cui nella gioventù per esempio metropolitana ci sono le realtà, quelle periferiche che arrivano in piazza dal centro, vogliono far casino sostanzialmente, no? Fino a quelli che sono, come dire, poi l'elemento più corposo, no? Diciamo, di quello che sono le sue mobilitazioni, è quello strato che lavora soprattutto o nella pubblica amministrazione a basso livello o nelle aziende IT, eccetera, che ha come idea e come faro ancora il mito e l'illusione dell'Occidente, no? E che non, cioè sostanzialmente sono gente che lavora sui computer e che pensa che se vivesse in Occidente prenderebbe 2-3 mila euro al mese, avrebbe una bella macchina e tutto, c'è la democrazia, una figata, è bellissimo. No, e quando tu gli spieghi, dici no, ma guarda che là sono 700 euro, quale democrazia, c'è un autoritarismo, ti rimangono a bocca aperta, perché esiste questo tipo di... Allora, dentro questo tipo di mobilitazione e manifestazione è cominciata così, ma già quelle che si sono tenute nel 2019, quando ci fu la famosa cosa del palazzo di Putin, del palazzo di Putin, hanno assunto completamente già una dimensione sociale, perché la crisi ormai in Russia era assolutamente evidente. E infatti le manifestazioni sono cominciate nelle grandi città, ma la seconda settimana erano dappertutto. La seconda settimana, dove ci furono più di 200.000 persone in piazza, furono mobilitazioni in 65 città, in cui buona parte delle città siberiane erano entrate in campo. Le città siberiane non sono entrate in campo sulla democrazia, sono entrate in campo sulle condizioni materiali di vita, su città che dopo l'Unione Sovietica hanno conosciuto soltanto uno smantellamento di tutte le strutture sociali, dove gli ospedali stanno letteralmente crollando in pezzi. Cioè, questa è lo stante che si è assistito anche a linee di faglia dentro lo stesso Partito Comunista della Federazione Russa, che ha iniziato a disgregarsi, e che vediamo adesso anche sulla questione della guerra. Perché se sulla guerra il Partito Comunista della Federazione Russa ufficialmente ha la posizione più a destra ancora di Putin, no? E nella base c'è suo movimento e ci sono dei segnali molto forti che su questa cosa non ci si sta. Per cui quando osserviamo, ci sono stati dei movimenti che hanno in Siberia che hanno assunto caratteri, come dire, autonomisti, secessionisti, ma tutto questo gran ribollire che avviene in Russia, bisogna starci molto attenti, perché in Russia quando si scende in piazza non è uno scherzo. Cioè, le due ondate che ci sono anche state questa volta qua di mobilitazioni contro la guerra, ci sono stati 15.000 fermi, ci sono stati 1.200 arresti amministrativi, che vuol dire che sei in una prigione di zona, vieni messo lì da 30-60 giorni, ci sono oltre 80 processi penali in corso per queste manifestazioni. Cioè, quando si scende in piazza è una roba seria, e per cui voglio dire, e bisogna stare molto attenti e osservare molto attentamente quello che succede, perché è chiaro che questa più si andrà avanti se la guerra proseguirà, questo movimento tornerà a farsi sentire. Per quanto riguarda l'Ucraina, è anche collegato con la Bielorussia. Mi sembra che la divisione in questo momento nel movimento anarchico sia molto regionalizzata, anche se esistono tipo gruppi come Black Flag in alcune città della Russia che hanno preso una posizione disfattista, ma molto, come dire, molto sfumata e molto poco attiva, diciamo, tanto per intenderci, no? Oggi, come dire, quello che domina non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista, come dire, pratico, è questa posizione pro-interventista, perché dà subito una soluzione pratica alla questione, cioè noi proponiamo di far così, mentre da altre parti si dice no, non siamo d'accordo, ma non c'è una proposta. C'è qualcun altro? Sì? Chiedere se era a conoscenza di forme di solidarietà, supporto di tipo internazionalista rivolte ai compagni anarchici provenienti ovviamente al di fuori dell'Ucraina e della Russia. Cioè di forme di solidarietà internazionali da paesi occidentali, eccetera. No, io non lo so, io ho preso contatto proprio oggi con una realtà austriaca che vorrebbe fare questo convoglio Sunflyer, che viene chiamato, e che non vuole essere come una soluzione umanitaria, cioè vuole raccogliere tutta una serie di beni che possono essere mandati in Ucraina, ma che si vuole collegare direttamente, per esempio, ad alcuni settori del sindacato ucraino. Cioè questi beni verrebbero consegnati direttamente, e in questo modo un possibile, come dire, conoscenza e approccio per ulteriore discussione successiva sulla questione della guerra, per cui come elemento, come dire, pratico, no? Di collegamento pratico. Poi ne parlerò anche sulla mia pagina Telegram. C'è qualcun altro? Sto sbarrando l'occhio, no. Ok. Io vorrei chiedere un paio di precisazioni a Iuri, tenendo conto che se noi pensiamo di poter o di dover mobilitare un fronte, chiamiamolo disfattista, dobbiamo, penso, prima sfatare due leggende. Una è proprio quella il prossimo passo è la guerra mondiale. In realtà il prossimo passo sono una serie di guerre che continueranno il cammino appena intrapreso nel decennio dopo. L'altra è quella di Zelensky, rappresentante della resistenza ucraina. Allora, cominciamo dal primo. Sono anni, almeno dal 2014, ma anche prima, che effettivamente la NATO, sotto la direzione americana, perché la NATO è la lunga mano degli americani, sempre di più, non solo formalmente, ma effettivamente, la NATO sono anni che cerca di scatenare questa guerra. I fattori, cioè gli elementi di contrapposizione, gli elementi che hanno preparato questa situazione sono due: da un lato effettivamente la Russia di Putin, dall'altro gli americani. L'espansione a est della NATO non è una semplice un inevitabile andamento dell'espansione capitalista, dell'espansione imperialista. C'è un progetto, e il progetto riguarda il Mar Nero. Il Mar Nero è il punto di connessione tra il Mediterraneo, dove già più di mezzo mondo è impegnato nelle guerre in Nord Africa e nell'est del Mediterraneo, e la parte continentale dell'Europa centrale, dell'Europa e dell'Asia centrale. Il chiedere, come ha chiesto dal 2000, come chiede da sempre l'Ucraina l'ingresso nella NATO, significa far entrare la NATO nel Mar Nero, dove non solo ci sono due attraversamenti, due gasdotti che lo attraversano, che portano il gas in Europa, ed è quello di cui si è parlato anche prima abbondantemente, ma è lo sbocco per la Russia, per i propri prodotti in Occidente, anche solo il grano, non solo il grano dell'Ucraina, ma anche quello della Russia, e viene trasportato via mare, e per la Cina, che avrebbe un accesso in più all'Africa, all'estensione della Via della Seta. Allora c'è una, d'altra parte, per la Russia controllare la Crimea e la costa del Mar d'Azov e del Mar Nero significa impedire di essere bloccata entro i propri confini, bloccata nella possibilità di esportazione, bloccata nell'esportazione del gas. Quindi non possiamo dire che semplicemente si contrappongono due blocchi senza specificare perché. Va chiarito, secondo me, che c'è in corso l'inizio di una guerra più ampia, sì, non necessariamente la guerra atomica, la guerra mondiale, ma una guerra che riguarda uno scacchiere del mondo sempre più ampio, che dal Medio Oriente alle coste sud del Mediterraneo arriva fino al Mar Nero, arriva fino all'Asia centrale. La seconda questione, Zelensky. Bisogna, secondo me, sfatare contraddire il mito dell'eroe popolare. Certo, si presenta bene, è un attore, è anche capace di presentarsi bene in maglietta e calzoni verdi quasi mimetici. Zelensky da 10 anni, è comunque in collegamento, in affari con gli Stati Uniti, con la presidenza Obama prima e col sotto non mi ricordo che cosa, Biden ai tempi, e lo è oggi. Diversamente, cioè, ha fatto una politica all'inizio del suo mandato relativamente contro il potere degli oligarchi, che erano gli oligarchi che venivano dal disfacimento dell'Unione Sovietica, cioè quelli che, fatti soldi e arraffato delle ricchezze, avevano la capacità di non solo condizionare i governi, ma anche di impostarli. La figura di Zelensky è la figura americana. Diamo spazio invece all'intervento americano nella possibilità proprio di determinare questa corsa al Mar Nero, di determinare l'ingresso, questa fantasia dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, perché è stata una pura promessa che non viene mantenuta, proprio perché non è questo il programma, non è quello di arrivare alla guerra mondiale, non è quello di avere due fronti contrapposti, è quello di allargare quanto più possibile i conflitti fino a che è possibile combattuti col sangue degli altri. Certo che i due fronti tendono effettivamente ad arrivare a contatto, ci vorrà, penso, ancora molto tempo. Tutto qua, volevo chiedere due precisazioni in questo senso a Iuri. Allora, sulla prima questione, abbiamo ancora tanto da attendere su una guerra mondiale. Io, come dire, ho delle difficoltà a fare delle previsioni specifiche, anche in preparazione di questo intervento c'era un compagno che diceva: ma da questa assemblea deve anche venire fuori che precisiamo che, insomma, che domani non scoppia la terza guerra mondiale, come dicono, come la gente inizia a temere leggendo i giornali. E io mi sono detto: perché? Cioè, nel senso, non perché io ritenga che domani scoppiare la seconda guerra, la terza guerra mondiale, ma se noi osserviamo, io lo osservavo da Mosca, no? Ma era una percezione comune, no? Nel mondo dei compagni. Poi c'erano gli Stati Uniti d'America che da un mese che dicono: guardate che i russi sono là ammassati e adesso entrano. Ma il dibattito generale comune è che la guerra non ci sarebbe stata. Sarebbe stato delle scaramucce, che eravamo di fronte a una situazione come quella dei missili del 62, Cuba, la crisi cubana, e per cui alla fine si trovava la quadra della situazione, si tornava a trattare e così via. La mia percezione è che non ci sarebbe stato il conflitto, che il conflitto sicuramente c'erano le condizioni perché il conflitto diventasse quello che è diventato, ma nel giro di qualche mese, attraverso una escalation. Abbiamo sbagliato in tanti e poi ci siamo trovati una bella mattina che la guerra è cominciata. Ora, quando inizia una guerra e come si sviluppa, non credo che esista nessuno al mondo che può sapere e definire, perché c'è l'elemento del caso, c'è l'elemento della provocazione, c'è l'azione, le false flight flag operation, che sono operazioni fatte, io praticamente, molti ancora ritengono, e probabilmente anche provato storicamente, che il bombardamento a Pearl Harbor fu lasciato fare. Gli americani sapevano benissimo che ci sarebbe stato, ma loro avevano necessità che il bombardamento a Pearl Harbor ci fosse. Sono tutta una serie di valutazioni. Putin ha fatto delle valutazioni molto precise, ha verificato che a un certo punto bisogna cercare di cambiare i rapporti di forza sul piano militare, perché sul piano commerciale la Russia non è in grado. Questo è l'elemento di fondo. Bisogna operare in un'altra direzione. Ma queste valutazioni, che alla fine sono state fatte col suo gruppo dirigente, con l'esercito, eccetera, eccetera, eccetera, nessuno poteva saperlo. Allora, parlare che tendenzialmente la terza guerra mondiale non è domani, non ci deve far dire: vabbè, allora continuiamo a occuparci del nostro spritz al sabato sera perché tanto è una cosa che probabilmente riguarderà le prossime generazioni. No, io penso che noi siamo dentro, in un certo senso siamo già dentro la terza guerra mondiale, no? Siamo già dentro questo scontro, perché quello che stiamo osservando, lo scontro che sta avvenendo con le sanzioni, vuol dire protezionismo generalizzato. Cioè, non è ancora così, ma questa è la strada, e il protezionismo generalizzato porta su una strada che è disastrosa. Delle guerre commerciali che sono già adesso furibonde, perché quello che si gioca sul gas e sul petrolio è una guerra furibonda. E per cui, secondo me, io su questa cosa della terza guerra mondiale ci andrei cauto. Secondo elemento, Zelensky. Ma Zelensky è un personaggio sorto dalla crisi ucraina, dalla profondità della crisi ucraina. Cioè, il fatto che il gruppo dirigente, che la Russia abbia prodotto un leader come Putin, e anche il fatto di una certa tradizione dell'esercito militare, dei servizi segreti direi anche, ma anche di una struttura sociale che comunque ha una sua, ha un suo peso, perché comunque l'esportazione del petrolio e del gas e un complesso militare industriale che, seppur ridotto dopo il periodo sovietico, è rimasto di significativa importanza, produce un Putin. È come, per esempio, ha prodotto una Merkel, perché comunque la Germania ha prodotto una Merkel, perché insomma è un capitalismo che esige un leader di un certo livello. Ma Zelensky è il prodotto della crisi di disfacimento del paese. Cioè, dopo Poroshenko, che era il re dolciario, no? Cioè era arrivato su un oligarca che tra l'altro inizialmente era filo russo all'inizio della sua carriera politica, tanto per capire come gli vogliono i giochi, è stato un fallimento, perché l'Ucraina dopo 5 anni di Poroshenko non era riuscita a cambiare i rapporti di forza nella guerra, l'economia era crollata, il paese è indebitato, perché attenzione che l'Ucraina è indebitata col Fondo Monetario Internazionale, con la Banca Mondiale, con la Banca di Sviluppo Europea, e continuano a dargli nuove, perché paga trimestralmente tutti gli interessi. Anche eh? La Russia ha pagato. Anche la Russia, no, adesso ha pagato. Sennò... sì, però voglio dire che l'Ucraina, che l'Ucraina rimane un ottimo pagatore del Fondo Monetario Internazionale, sta perfettamente alle regole del Fondo Monetario Internazionale, come pagherà tutte le armi che gli stanno arrivando. In un certo senso, se volessimo usare un paradosso, in questo momento il gruppo dirigente di Zelensky si è un po' accorto della truffa che viene giocata sulle spalle, perché hanno cominciato a lamentarsi tantissimo in modo completamente aperto. Dico, ma come? Non ci date la fly zone, non ci date questo, non fate il pieno embargo. Cioè si stanno accorgendo per certi versi che l'aiuto, questo è completamente peloso, è semplicemente di far diventare l'Ucraina una piazza d'armi per lo scontro con la Russia e in prospettiva con la Cina. Però questa è la realtà. In questo senso si apre una contraddizione molto interessante, secondo me. Voi avrete notato che ci sono stati nelle ultime settimane dei momenti di abboccamento a livello negoziale in cui c'era la percezione che ci sarebbero le basi per un accordo. E subito, immediatamente dopo, Zelensky è intervenuto per dire... no, se ne sta parlando, ma non è così, non è, perché c'è un elemento di fondo, che comunque il popolo ucraino sta soffrendo in chiave nazionalista, eccetera, ma si trova di fronte a una situazione particolare, che c'è stata la mobilitazione generale in Ucraina, sono tutti armati in Ucraina, e sono anche armati quelli che non hanno la mobilitazione generale, cioè nelle case ci sono le armi. E nel momento in cui lui andasse a firmare un accordo con i russi che prevede la perdita ufficialmente della Crimea, del Donbass, ma il terreno per un rivolgimento interno, io non dico per forza in chiave socialista o rivoluzionaria, però il paese entrerebbe completamente in fibrillazione. E per questo lui ha iniziato a parlare di referendum, ha detto no, ma io firmo degli accordi con i negoziali, con i russi, poi facciamo il referendum. Ma in un paese che c'è la guerra distrutto, tu fai un referendum dove ci sono 10 milioni di profughi che se ne sono andati all'estero. È chiaro che si sta aggrappando sui vetri, perché in questo momento l'accordo negoziale è impossibile. È impossibile perché verrebbe rifiutato dagli ucraini. I russi del resto non possono tornare a casa senza niente in mano. Sarebbe la fine di Putin, cioè il crollo di Putin nel giro di 6 mesi. I russi devono tornare a casa con un risultato, ma questo risultato in questo momento Zelensky non glielo può... anche se volesse concederglielo, lui lo concederebbe anche, ma non può. E questo è a me sembra che sia il centro in questo momento dello scontro, no? Che si arrotola lì. Beh, allora, la questione della terza guerra mondiale è evidente, cioè che è da capirsi, nessuno pensa che sia né domani mattina né a brevissimo, però dentro questo processo che vede però oggi il cuore dell'Europa e dietro come regia la principale potenza, la potenza cosiddetta numero uno, cioè gli Stati Uniti, i quali, dobbiamo aggiungere, hanno veramente perso quel ruolo che avevano conquistato sul campo con la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, cioè la capacità di cantare e portare la croce è andata in declino. Quindi questa è la novità. La novità poi sarebbe di andare a capire chi può essere messo in una condizione di ampliare i conflitti che stiamo vedendo perché possa sentirsi strangolato. Insomma, torniamo alle cosiddette sanzioni di Versailles, no? Determinarono tutta una serie di meccanismi. Però io credo che il miglior nemico alla terza guerra mondiale siano il movimento che oggi non vede ancora una polarizzazione importante, cioè il movimento dei lavoratori, il movimento degli oppressi a livello mondiale. Questi sarebbero l'unico antidoto alla guerra. E recentemente negli Stati Uniti, a seguito dell'uccisione del nero che ha visto un movimento che non ha visto più solo i neri muoversi, ma i neri insieme ai bianchi, insieme a minoranze ispaniche, e poi con quel crogiolo di etnie delle quali gli Stati Uniti ne hanno a dismisura. Queste sono le questioni da tenere presente. La stessa lezione di Hong Kong. Attenzione che dietro l'angolo c'è la questione di Taiwan, che si può vedere un po' come va a finire. Insomma, molte cose tendono a polarizzarsi. Polarizzarsi vuol dire che noi possiamo star qui a raccontarla bene, essere bravi, averla studiata, ma ci sono dei processi ai quali dobbiamo stare particolarmente attenti, perché se no improvvisamente, che non è improvvisamente, il Kazakistan non ci sarebbe. Quindi dobbiamo guardare cosa succede. Prima la domanda che faceva quel compagno là relativo, non se non ho capito male, anche la storia della classe media è ritirato fuori. Ecco, la questione della classe media a livello dei paesi, chiamiamoli così, altamente industrializzati, insomma i paesi che vivono da un punto di vista del reddito meglio di tutti gli altri, è una questione anche questa cruciale, perché l'immiserimento che vede la classe media, la vede come futuro, è lì. E questi, abbiamo visto, adesso vi faccio l'esempio per capirsi, i gilet gialli sono stati un segnale, ma non è il nostro segnale. Però lì bisogna stare attenti, perché che non finisca che questi trovino qualcuno che li rappresenta e li porta a diventare una forza politica. Ecco, quindi tutte queste cose, prima della terza guerra mondiale, si dovranno vedere, si dovranno approfondire. Dentro questi processi credo che più che 57 riunioni che possiamo fare noi, saranno i fatti, la borsa della spesa, uno che guarda la bolletta e via e via e via, che si capisce di più. Magari in una sono giornate dove si capisce di più di 27.000 riunioni che abbiamo fatto noi. Bene, quelle giornate noi dobbiamo essere in grado di capirle un po' prima, per farne tesoro e essere in grado di dire qualcosa. Ecco, questo è l'antidoto alla terza guerra mondiale. C'è un intervento online, aspetto un attimo. No, io vorrei solo dire due cose velocissime, non vorrei. Purtroppo mi sono dovuto assentare un momento e non ho sentito altri interventi. Ho sentito anche questo qui ultimo di Marco Caccamo e volevo solo dire questo. Io non so se qualcuno è intervenuto ponendo il problema della terza guerra mondiale, spero proprio di no, perché cioè, saremmo fuori binario, secondo me, esprimo solo due mie opinioni, anche perché la situazione è molto complicata, come ha detto Marco, non è così semplice, non è, abbiamo cambiato registro, c'è una nuova situazione, è crollata l'Unione Sovietica, è stato l'11 settembre, la gente è cambiata, le famose movimenti pacifisti si sono molto ridimensionati, E in sostanza viviamo in un'epoca in cui è molto difficile parlare di movimento contro la guerra. Secondo me questa sorta di guerra strana tra Russia e Ucraina, in sostanza, ha origini più interne che internazionali. Cioè ogni paese che interviene, o direttamente nella guerra, i due paesi, sia quelli esterni che vogliono sostenere la guerra finanziandola, eccetera, finanziando gli ucraini, eccetera, devono risolvere i loro problemi interni. Cioè Putin è in caduta libera da molto tempo, Biden è in caduta libera da molto tempo. Se non ci si inventa qualcosa, i politici sostanzialmente stanno battendo la fiacca e il consenso lo perdono, perché la gente è occupata ad altro, a sbarcare il lunario, a risolvere i problemi quotidiani, come diceva anche Marco. Quindi la situazione è abbastanza strana e difficile, e tutti questi politicanti, sia quelli guerrafondai, sia anche gli altri che sono guerrafondai, di fatto perderanno la guerra. Non ci sarà nessun vincitore di questa guerra, secondo me, perché di fatto, sia che Putin riesca a ottenere il Donbass e la Crimea col suo corridoio, perché è quello che voleva Putin per sollevarsi all'interno della Russia, sia che Zelensky riesca a bloccare le ambizioni di Putin, cosa che purtroppo per lui non riuscirà a fare per i rapporti di forza in ballo, sostanzialmente cadranno tutte e due. Lo stesso Biden negli Stati Uniti si sta sforzando di far vedere agli americani che è in grado di fare una guerra senza mandarli. Cioè il sogno di Biden era quello di obbligare l'Europa a intervenire militarmente in Ucraina. Non ci è riuscito, sia perché l'Europa non esiste, sia perché sostanzialmente l'Europa non è così stupida, o meglio i paesi europei non sono così stupidi da avventurarsi a fare un'avventura in Ucraina che porterebbe solo guai e danni economici, visto che le condizioni economiche di tutto l'Occidente capitalistico e non sono piuttosto gravi, molto gravi, e tutti sognano la ripresa dopo il Covid. La questione è questa. Cioè è una guerra che è sostanzialmente un fallimento sin dall'inizio. Putin è stato obbligato a fare questa guerra e Zelensky è stato obbligato a fare tutta la sceneggiata della grande difesa della patria dell'Occidente. Sono tutte chiacchiere, mistificazioni. È chiaro che poi ci sono le corporation che fanno i loro affari, perché il capitalismo fa sempre affari su tutte le cose, sulle armi, vediamo la Raytheon, la Lockheed Martin, ma anche gli speculatori sul gas, sul petrolio. Noi accusiamo la Russia, ma i responsabili sono i grandi accumulatori di gas e petrolio che fanno aumentare e lievitare il prezzo sul mercato secondario della finanza. Volevo solo dire questo, mi spiace, non c'è un movimento di lotta, perché se ci fosse davanti all'aumento delle materie prime, all'aumento dell'energia, eccetera, noi avremmo già visto delle reazioni anche importanti. Noi abbiamo solo gente che o appoggia l'Ucraina o non appoggia la Russia, però la giustifica, e poi gente che la grande maggioranza dei casi non gliene frega assolutamente niente, deve sbarcare il lunario. Questa è la situazione drammatica che stiamo vivendo, mi spiace. Poi se nasceranno dei movimenti, noi non possiamo prevedere il futuro, perché non siamo delle streghe non abbiamo la sfera di cristallo, anzi, meno male, perché prevedere il futuro è molto molto rischioso ed è anche una cosa molto brutta. Se accadrà qualcosa, inevitabilmente ci saremo in mezzo o no. Se non ci saremo in mezzo, non piangerà nessuno, andrà avanti per conto suo. Non farei affidamento sui movimenti del passato, perché si sono consumati. Negli Stati Uniti ormai siamo ritornati alla normalità. Certo che i ceti medi sono in una crisi economica molto grave, non solo negli Stati Uniti ma anche in Occidente, ma a quanto pare non manifestano più reazioni, a meno che domani non venga smentito. Scusatemi. Grazie. C'è qualche... Madonna. volevi dire una rosa? Aspetta, parli, vuoi sederti? No, no, no. Mi sembra a me personalmente un errore assumere la terminologia Terza Guerra Mondiale. Perché? Perché anche la guerra ha una, si trasforma, non cambia la sostanza, ma agisce diversamente. Quando noi diciamo Terza Guerra Mondiale, andiamo al 1940-45 e lo associamo a tutta una serie di cose che sono degli anni 40. E la guerra si è sostanzialmente combattuta in Europa da 23 anni quando hanno bombardato Belgrado. E mi ricordo che a Milano, lo dico al compagno che ha parlato, è l'ultimo corteo che io ho fatto a Milano, eravamo 1500 persone. Da quel momento lì è legittimato in Europa l'intervento militare della NATO, che è una organizzazione che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale come egemonia totale globale degli Stati Uniti. Quindi la guerra di classe, che nei suoi diversi livelli, come si manifesta nel Terzo Mondo, come si può manifestare in Europa, come si può manifestare nei paesi asiatici, e ha delle sue caratteristiche, dei suoi tempi e delle sue fasi. Si tratta di riconoscerle. Però Terza Guerra Mondiale, e cosa sono state? Cioè, se noi diciamo Terza Guerra Mondiale, stiamo dicendo che il modello della democrazia occidentale, questo che vai a votare una domenica e che la rende superiore a tutti quanti gli altri tipi di società più o meno industrializzato, è perfetto. Cioè, non ci sono state guerre. Col cazzo che non ci sono state guerre. C'è un'accelerazione. Grazie. Adesso non so, perché c'è Oreste Scalzone, che io non so dove sia, che vorrebbe intervenire, però mi dicono che dovremmo chiamarlo. Però mi raccomando, perché eravamo quasi in chiusura, io ti ho fatto, diciamo, un privilegio. Brevissimo, sono 3-4 minuti. Va bene, vai. Allora, salute, buonasera compagni e compagni. Ecco, il tempo manca crudelmente, vorrei dire solo un incipit da capo di oggi. C'è un punto, diciamo, oltre il quale scatta per ognuno la sua propria, come viene usato oggi come termine, linea rossa. Io mi vedo, mi sento intimare, innanzitutto a mezzo di tagliere, con quello che significa il ricattatorio, mi sento intimare ogni ora emozioni, sentimenti viscerali, nella fattispecie intimare di commuovermi per il contratto da 2.000 euro a prestazione ritirato. Con tutto quanto, certo, questo sottende nella fattispecie dal professor criminologo antiterrorista della Luis Orsini. Orsini, a mezzo dei peggiori cospirazionismi miranti in basso, esalati da palazzi e palazzetti, tutti in combutta fra loro e soprattutto sul punto, esalati contro gli ultimi, contro la gente rivoltosa, tra quella dei puguri, il professor Orsini è tra quanti ci designano fuori dall'umano, target del diritto del nemico, secondum Gunther Jacobsen. Sentire, vedere che è per contro stigmatizzata con i peggiori marchi, un'empatia sconfinata che comincia dalle ausiliari e ditta, ucraine o ucraine a seconda delle lingue, russe, così come altri scenari, latino, spicane, provenienti da terre d'Africa o anche con paesane delle periferie. E come non vedere che nelle singolarità si assomigliano tutte, loro, gli occhi dei loro figli e bambini, così come si assomigliano truppe, medaglieri, rituali, eserciti, milizie, marce al passo dell'oca, pennacchi, bandiere, oripei, propagande contro propagande, disinformazioni. Ecco, questa per me è in estremis la mia propria lingua. Dopo aver buttato lì continuamente dei riferimenti che andavano indietro, da un certo Marx a Cesarano, Gunther Anders, ad altri, ultimamente batto e ribatto, spiego, eccetera, facendo il nome di Iuri e dicendo andatevi a vedere Matrioska, in cui Iuri dice è certo che ci sarà pure quello, quell'altro, Bandera, ma ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 altri gruppi inquadrati, annessi, che hanno le stesse simbologie, le stesse caratteristiche. E beh, rispetto a questo, ecco, male a Iacta, ricomincio di qui e chiamo quello che andrò poi dicendo e argomentando, che ho già detto qui in radio, eccetera, che è sempre molto complesso e lungo. Dico adesso LR, linea rossa 1, segue. Salut. Grazie, un abbraccio. Non so se qualcun altro... Però anche basta, cioè non è che... Grazie.